Innanzitutto vi faccio vedere una cosina. Mi sentite? Sì. Molti credono che il metaverso sarà solo virtuale. Un giorno, sebbene questi studenti saranno in un'aula virtuale, ciò che impareranno insieme sarà reale. Un chirurgo potrà fare tutta la pratica necessaria nel metaverso, prima di confrontarsi con un paziente reale. Questi studenti non si trovano realmente nel 32 a.C., ma potranno osservare Marco Antonio mentre dibatte nell'antica Roma. Il metaverso è uno spazio virtuale, ma il suo impatto sarà reale. Bene, allora questo penso l'avrete visto forse diversi di voi, perché gira parecchio, insomma, no? Come pubblicità. Ora poi l'hanno fatto un altro in cui si vedono i pompieri che salvano persone che con la realtà aumentata riescano a stabilire qual è il canale attraverso il fuoco in cui riescono a entrare e cose di questo tipo. Allora, rispetto a questo scenario che ci prospettano, che c'è di vero? C'è da chiederselo? Quasi nulla. Semplicemente c'è una serie di esperimenti in qua e là, e più che altro tutto ciò si dovrebbe basare appunto sulla realtà virtuale. Che è la realtà virtuale? Semplicemente, diciamo, con la strumentazione elettronica, ma più che altro non come lo fanno vedere qui, ma con quegli occhialoni appunto per realtà virtuale, che qualcuno avrà anche visto, in effetti entra in un mondo, diciamo, virtuale, appunto artificiale, e all'interno di quel mondo, oppure anche davanti a uno schermo, però all'interno di quel mondo di solito crea un avatar, cioè un alter ego di se stesso elettronico, praticamente un omino che lo rappresenta, a cui fa fare delle determinate cose dentro quel mondo virtuale. Oppure si dovrebbe trattare di realtà aumentata, cioè io in pratica inquadro con la telecamera, con la fotocamera, con lo smartphone, quel che ho, un qualche oggetto, una scena, un posto e così via, e mi arrivano attraverso sullo schermo oppure nel visore, eccetera, eccetera, mi arrivano delle informazioni relative a quel determinato cosa che io ho inquadrato. Hanno fatto Giardini Saia Ovino. Come hanno fatto Giardini Saia Ovino, a un certo punto hanno fatto vedere il famoso murales e si entrava dentro il murales e praticamente si girava e si poteva vedere i diversi particolari di quel murales. Quindi questo dovrebbe essere, ma di questo non c'è nulla di quello che Meta propaganda, cioè di questo mondo chissà come, eccetera, eccetera. In realtà quello che c'è è semplicemente qualcosa che, appunto, come le cose abbiamo citato fino ad ora, insomma, qualcosa di simile o di vicino a dei giochini. Per esempio, sono stati fatti degli accordi con questa roba qua, Decentraland, da parte di Meta, per appunto realizzare qualcosa di virtuale, oppure con Sandbox. E qui assomiglia tanto a qualcosa che forse abbiamo già visto. Non so se vi ricordate Second Life, se vi ricordate, ma anche roba tipo Minecraft, però insomma si va poco al di là di quelli che sono dei giochi per ora. Quindi per ora è propaganda. Tra l'altro Meta parla di tutto ciò ormai da diversi anni, dal 2019-2020, tanto è Siete vero. Instagram e Facebook. Sì, no, ci sarà. Hanno appunto pensato a un certo punto di cambiare il nome di Facebook in Meta. Poi qualcheduno, insomma, si intende di marketing, li deve avere sconsigliati, perché non l'hanno fatto. Allora, appunto, si diceva, che cos'è Meta? Meta è semplicemente una grande multinazionale in cui raccoglie, è la sommatoria praticamente di alcuni dei grandi social network. Facebook, che Mark Zuckerberg aveva inventato a suo tempo, fondamentalmente per imbroccare all'università, e poi ha acquisito Instagram e poi ha acquisito WhatsApp. Bene. E quindi la sommatoria di questi tre social network semplicemente è Meta. Meta però, tra l'altro, una cosa che si chiama anche Meta è questa che li raccoglie, no, tutte e tre, è questa Meta Business Suite. E in realtà, al posto di quello che ci fanno vedere alla televisione, della pubblicità che fanno, semplicemente per ora cercano di raccattare soldi facendo in modo, perché è un sistema, tutte e tre questi social network sono sistemi assolutamente centralizzati, e quindi è possibile esporre qualcosa in teoria a tutto il mondo, poi vedremo quanto in teoria, e quindi c'è ovviamente anche lì chi magari ha dei soldi da spendere, per cui riesce a fare in modo, lo fanno in modo che risulti sempre tra i primi risultati, tra le prime cose. Tra l'altro Facebook, non so se ve lo ricordate, ma una volta i post fatti su Facebook erano in ordine cronologico, ora non lo sono più in ordine cronologico, ma sono in ordine relativamente all'algoritmo di Facebook, e quindi anche una cosa che magari è stata postata 3 giorni fa può essere in testa a tutto, e in base appunto o all'algoritmo o al fatto che quello ha pagato per poter balzare in testa. Ora, dicevo appunto, sono sistemi centralizzati e sono globalizzati e sono enormi. Tipo, per dare un po' di numeri, Facebook risulta avere attualmente circa 2 miliardi e 500 milioni di utenti, WhatsApp 2 miliardi di utenti, Twitter, che non è facente parte di Meta, è di un'altra banda, però ora l'ha acquistato Elon Musk. Elon Musk c'ha tante cose, c'ha la Tesla, c'ha SpaceX, c'ha tante cosine, insomma, no? E tra l'altro è un tipo molto particolare, e anche questo ci deve far riflettere, perché il fatto che Elon Musk sia arrivato e nonostante Twitter non gliela voleva vendere, ma poi alla fine se l'è presa, fa capire che essendo dei sistemi in cui noi buttiamo tutte le nostre osine, tutte le nostre vicende di vita, in effetti appunto, essendo così centralizzate, possono essere in qualsiasi momento vendute a qualcuno che può essere più simpatico o meno simpatico. Che significa che se lo prende qualcuno? Significa che magari quel qualcuno che se lo compra cambia la policy, cioè cambia le regole del gioco dentro a quel social network, e potrebbero non piacerci, o comunque cambia per esempio il sistema appunto di pagamenti interni e di algoritmi che c'ha. E poi c'è, che ne so, andando avanti, TikTok per esempio, che ora no, va di moda, tra i giovani eccetera, che c'ha meno 330 milioni di utenti, e che ora è bandito praticamente sia, diciamo, per i dipendenti pubblici statunitensi che per quelli europei, perché dice che ruba, cioè che in effetti fa spionaggio, bene, ruba i dati eccetera e fa spionaggio. Ora è buffo perché vabbè, i cinesi sono nostri nemici, si è capito, per cui loro fanno spionaggio, ma Facebook, Twitter, Instagram o WhatsApp non è che facciano differenze. Anche loro fanno esattamente la stessa cosa, ma loro sono amici, per cui lo possono fare. No, ho sbagliato comunque. Twitter ha 330 milioni di utenti e TikTok ha 1,2 miliardi di utenti. Allora, quali sono le controindicazioni rispetto a questi? Qualcosa l'ho già accennato, di quali sono i problemi che insorgono a stare in questi social network. Ora ne tiro fuori, dicevo appunto, questi nel momento in cui noi diventiamo utenti e quindi postiamo, raccolgono dati costantemente, qualsiasi cosa, non solo i social network, ma qualsiasi cosa noi facciamo in rete viene tracciata. E non è che non hanno la possibilità di metterlo da parte, ce l'hanno. L'altra volta si parlava appunto dell'intelligenza artificiale, dei dataset, dei big data che vengono raccolti. Bene, questi big data, questi dataset vengono raccolti in questo modo, attraverso la raccolta dati di tutto ciò che noi facciamo costantemente in rete. Questo gli permette di profilarci, quindi di sapere le cose a cui noi siamo interessati, e quindi ci danno le cose a cui, secondo loro, noi siamo interessati. Qualcuno potrebbe dire, ma io non ho niente da nascondere. Io, in questo momento, forse, anzi, ho dei dubbi, però in un altro momento della mia vita potrei avere delle cose da nascondere, o perlomeno da nascondere a qualcuno. Si parla sempre di privacy. Io sono dell'idea che privacy sia una parola un po' assurda, troppo anglofona, no? In realtà io vorrei non la privacy, ma vorrei poter dire ciò che voglio dire a chi voglio, e non che non so che fine fanno le cose che dico, non riesco a raggiungere chi, con colui con cui vorrei comunicare. E quindi questo è un altro problema. Tanto è vero che poi viene perso il controllo di tutte queste cose. Non so se vi ricordate lo scandalo Cambridge Analytica, in cui Facebook appunto dette la possibilità di fare delle ricerche statistiche sui suoi dataset, su quelle profilazioni e raccolta dati che aveva fatto. Cambridge Analytica, diciamo, non so se, non si sa se davvero sta così, se ne è approfittata, ne ha presi molto di più, è riuscita in questo modo a condizionare, pare, elezioni, cose e così via. E quindi escono dal controllo, o perlomeno il controllo non c'è. E questo è un altro problema. E si sa appunto che rispetto alle elezioni, sia quelle statunitensi, sia quelle della Brexit, sono stati condizionati il discorso di mandare messaggi mirati attraverso le profilazioni acquisite. Poi c'è un altro problema. Nel momento in cui io sto dentro un social network, io mi ritrovo ad essere profilato, e quindi in quanto tale, attraverso gli algoritmi che adoperano, poi parlerò anche un attimino, solo una parentesi sugli algoritmi, in effetti loro mi rinchiudono in una bolla. Perché? Perché un po' io, no, che in effetti parlo, ragiono soltanto con quelli della mia community, con quelli che ho scelto, e un po' loro che mi danno in pasto soltanto quello che loro ritengono possa interessarmi. In questa maniera rischio di avere un mondo chiuso. È un po' il discorso che si diceva all'inizio, no, sulla realtà virtuale. Ora, forse è meglio che questa cosa non sia andata in porto e ancora non ci sia, e così via. Perché? Perché tutto ciò poi dà dipendenza. Cioè, io sto dentro a questo ambito ridotto, oltretutto, chiuso in qualche maniera, e provate a immaginarvi che se ora i giovani, o comunque una parte dei giovani, non tutti i giovani, si perdono e diventano dipendenti, non possono fare a meno, vivono più nel social network che nella vita reale, che nella real life, come si dice. Provate a immaginarvi con il loro avatar, no, nella realtà virtuale, ancora di più. Bene? E così. Dicevo, facciamo una rapida parentesi sugli algoritmi. Allora, c'è questa cosa, è colpa dell'algoritmo, no? Succede anche cosa, asco un aereo, cioè è colpa dell'algoritmo. Allora, questi cavoli di algoritmi, in realtà, non è che siano degli enti astratti, qualcosa di astratto, o magari prodotto dalle macchine. Assolutamente no. Voglio dire, gli algoritmi sono semplicemente se il valore di questa cosa è A, allora fai questo, se è B, fai quest'altro, se non è né A né B, fai quest'altro ancora. Questo è l'algoritmo più semplice. Bene, ma questo lo scrive un programmatore, un essere umano, che è condizionato ovviamente da tutto ciò che ha intorno, dall'omologazione rispetto a quello che c'è intorno. E quindi, tra l'altro, oggi gli algoritmi sono molto più complessi, evidentemente. L'altra volta si parlava di GPT, di ChatGPT, degli strati di reti neurali, che sono degli algoritmi piuttosto molto complessi. Ovviamente più aumenta la complessità dell'algoritmo, più è facile che l'algoritmo si trovi di fronte a qualcosa che non è stato previsto o che comunque non risponde in maniera errata. Però ci si accorge magari dopo anni. E lì appunto è colpa dell'algoritmo. No, è colpa dei programmatori che spesso e volentieri vengono pagati poco o nulla. Cioè, avete presente quelli che lavorano in India, no? E che fanno gran parte del software attualmente esistente nel mondo. E poi ovviamente non è che siano molto contenti di tutto ciò che fanno per come vengono trattati. Quindi non è colpa degli algoritmi, è colpa degli esseri umani che fanno programmi. Con tutti i sei ma. Allora, poi appunto del filter bubble, del vivere in una bolla, ne parlerà più ampiamente Enrico. Tra l'altro, dentro i social network ufficiali, cioè quelli grossi di cui si è parlato, è molto facile trovare le fake news. Perché? Perché le fake news, in effetti, in questo ambito, no, così centralizzato e così enorme, è facile che ci entrino senza che magari qualcuno ne abbia la possibilità di dire oh, ma e di farsi ascoltare, questa è una fake news. Non solo. Ma dentro questi sistemi viaggiano qualcosa di automatico che sono i bot, cioè dei programmi che automaticamente generano fake news per conto di qualcuno e che le inseriscono in tanti, creano innanzitutto gli account fasulli in quantità esagerata. Da questi account fasulli poi riescono, attraverso una serie di meccanismi, a inserirli là dove possono essere maggiormente recepiti. E quindi in questa maniera le fake news girano in maniera molto più tranquilla che in altri sistemi, proprio perché per come sono fatti questi social network. E quindi, oltre alle fake news, poi ci sono... perché siamo in questo mondo, ma in questo mondo circola enormemente contenuti sessisti, razzisti, fascisti, xenofobi, eccetera. L'abbiamo visto più di una volta. E poi i social network ci portano spesso alla distrazione dei nostri reali interessi. Cioè io ho un interesse di un certo tipo, ma sono attaccato lì al social che mi manda magari qualcosa che capta in quel momento la mia attenzione, ma mi distrae rispetto a quello che effettivamente mi piacerebbe fare. Oppure, e poi c'è da dire, questi social network, come abbiamo visto, sono enormi, sono centralizzati. Questo significa che sono, cioè uno non se lo immagina, però per poter mettere in essere una cosa come questa con 2 miliardi e 900 milioni di utenti vuol dire avere delle server farm, vuol dire una serie di computer infinita, enorme, che consuma una quantità di energia incredibile. Ok? E oltretutto poi per poter fare tutti questi computer, tutte queste cose, eccetera, vengono usate tutta una serie di materie prime, tipo le famose terre rare, cobalto, litio, ma anche oro e così via, che, guarda caso, vengono raccattate in quelli che sono i paesi più poveri del mondo con uno sfruttamento bestiale. e però tutto ciò viene coperto. E poi nulla, il discorso appunto si diceva è discriminante, perché se io ho soldi riesco a farmi sentire, Trump sicuramente si fa sentire più di me, c'è poco da fare. E poi magari stavo buttato fuori, poi arriva Elon Musk e ha detto no, può rientrare. Però insomma, per capirsi, non c'è solo Trump, forse lui è stato buttato fuori perché è un po' esagerato. Allora, diciamo, quindi abbiamo visto Facebook, no, Instagram, il discorso del Meta Business Suite e così via. Bene. Allora, c'è un'alternativa a tutto ciò? Cioè, nel senso, noi qui, e quello che vorremmo fare è riuscire a dare un minimo di consapevolezza rispetto a quello che c'è in rete, a come funziona la rete, a come funziona i sistemi di comunicazione e i sistemi informatici. Poi, ognuno fa quello che vuole, ovviamente, ma anche perché sicuramente solo questi cosi qui mi danno, in teoria, poi vedremo è più teoria e pratica, una platea così ampia come per esempio avere di fronte in teoria 2 miliardi e 900 milioni di persone su Facebook. C'è un'alternativa a tutto ciò? Sì, si può dire di sì, non è... è un qualcosa di abbastanza diverso, però infatti si chiama Fediverso. Cosa significa Fediverso? Fediverso significa semplicemente se l'altro è il metaverso, cioè quello dei grandi social, questo è un universo federato. Allora, cosa si intende per universo federato? Ora, in rete, tra l'altro, su queste cose qua trovate un sacco di informazioni. E per esempio questa qua è la guida galattica per utenti del Fediverso. Fediverso sta per universo federato. In pratica il sistema, a differenza di quelli che abbiamo visto fino a questo momento, è semplicemente una federazione di piccole istanze, come vengono chiamate, diciamo, lato server. Cioè, ognuno può mettere su un computer, di quelli normali, vicini, o comunque un server non troppo grosso, e realizzare un'istanza di questi social, no? Di questi social del Fediverso. E attualmente non c'è molta gente qui sopra. Se arriva a 8 milioni, forse 9 milioni siamo arrivati complessivamente nel mondo, e ci sono 20.000 istanze. Ogni istanza praticamente è autogestita, cioè c'è uno o un'organizzazione o un gruppo o un'associazione che si prende la briga di mettere in piedi un'istanza. Tipo, per esempio, vedevamo all'inizio, ecco, l'arciportato per ora è semplicemente un utente, non ha un'istanza, ma volendo potrebbe creare un'istanza di social network alternativi. Diceva appunto, ci sono 20.000 istanze, dentro queste istanze si creano delle community, ok? Si diceva appunto, ma allora è peggio di quell'altro, perché qui la filter bubble è ancora più consistente. No, perché praticamente io sto... allora, qualcuno crea l'istanza dove io mi connetto. Per esempio, la più grossa in Italia è Mastodon 1. Ora ve lo trovo. Questa, che come vedete ha solo 67.000 iscritti, di cui 14.000 utenti attivi al mese. Quindi sembra poca roba. Ma il discorso, che dicevo appunto, è un universo federato. Per cui io posso mandare dei post a qualcuno di un'altra istanza, delle altre 20.000 istanze, o ricevere i post di qualcuno di un'altra delle 20.000 istanze. Collegarmi, seguire. Ok? Quindi È chiaro? Quindi, in pratica, io ho di fronte a quelli che per ora sono 8-9 milioni, ma che probabilmente cresceranno. Cresceranno anche perché, per esempio, è successo che quando Elon Musk si è comprato Twitter, la gente che ci stava dentro in un certo modo ha cominciato a preoccuparsi, per cui è migrata in quello che è il simil Twitter del Fediverso, che è questo Mastodon. Bene, vedremo poi che non c'è solo Mastodon nel Fediverso, ma Mastodon è quello più famoso, tant'è vero che se noi andiamo a vedere un po' di dove cavolo è, di statistiche, è in forte crescita. Ora vabbè, lo ricerco dopo. C'è una cosa che sale abbastanza repentinamente, quindi è destinato a crescere. E quindi Mastodon è uno. Poi per istanze. È praticamente, appunto, un'istanza è per esempio Mastodon 1. Vuol dire che è qualcuno che si è preso la briga di installare il software praticamente necessario per far funzionare Mastodon su un computer e l'ha messo in rete, e quindi io posso diventare utente di Mastodon 1, che però è federato con gli altri. Sì, non proprio, perché appunto esistono i sistemi centralizzati, che a quelli abbiamo visto, i sistemi federati come questo e i sistemi distribuiti, che invece praticamente le informazioni, è il peer to peer, è un'altra cosa, le informazioni sono distribuite in tutti i nodi. Bene, qui invece alcune informazioni sono su un'istanza, altre sono su un'altra, ma hanno la possibilità di comunicare tra loro. Ok? Dopodiché, come funziona? Allora, io voglio mettere su un'istanza, ok? Voglio mettere su un'istanza, e come vi finanzio? È appunto autogestito e autofinanziato, per cui ognuno singolo o gruppo in qualche modo trova il modo di autofinanziarsi. Questo comporta il fatto, per esempio, che nessuno possa comprare Mastodon, perché dovrebbe comprare una per una tutte le istanze, poi ne nascerebbero delle altre e non ce l'avrebbe, quindi non può mai possedere l'intero Mastodon una persona sola. E c'è un po' come dice, le discoteche e i pub, e poi ci sono i centri sociali e i cinque viaggi. In senso, sono auto-organizzazioni e vanno avanti con le proprie forme. Poi viene utilizzato per realizzare queste stanze software open source libero, per cui al limite io metto su un'istanza e se ho le capacità posso anche magari configurare il mio software, cioè fare le modifiche al software in modo che faccia quello che voglio, ok? Senza esagerare, perché sennò poi... Allora, tutto ciò, quello che permette, tra l'altro, di federare, appunto, di fare questo lavoro, per cui io sono su un'istanza e quindi ho la mia community, ma posso interagire con qualcuno o con diversi di altre community istanze, c'è un protocollo apposito che si chiama ActivityPub, ed è un protocollo del W3C, del World Wide Web Consortium, cioè di quelli che realizzano, cioè di quello che è l'ente che certifica e realizza i protocolli di tutta la rete internet. Quindi è un protocollo, diciamo, non proprietario, non di qualcuno, ma è un protocollo a disposizione di tutti. Non c'è pubblicità qui, a differenza dei grandi social network, perché appunto c'è una scelta precisa di non fare entrare pubblicità. Ritorna l'ordine cronologico, non c'è il meccanismo degli algoritmi famosi, per cui una notizia va in testa e quindi la vedo per prima, e qualcun'altra invece mi viene relegata in fondo e quindi non la vede nessuno. E poi, per quanto riguarda la raccolta dati, tutto quel discorso, rispetto alla privacy, qui non c'è tracciamento, ok? Perché per policy non c'è tracciamento. C'è una connessione più stretta, perché se il più grosso ha 67.000 utenti, c'è una connessione più stretta, magari addirittura lo conosco, chi gestisce l'istanza, e quindi lo controllo anche meglio, no? Nel caso in cui faccia qualcosa di strano. Tra l'altro, se uno delle istanze del Fediverso esce, ora finisco, esce dal seminato, cioè non fa quello che aveva promesso di fare, ovviamente tutte le altre istanze lo possono abbandonare, lo bannano dalla federazione, per cui non c'è più il meccanismo e quindi praticamente muore. Ok? Dopodiché la faccio breve perché mi dicono già... No, quindi scusa anche per la serata. No, ora non esageriamo. Sì. Per cui ovviamente dicevo, Mastodon è il simil Twitter, ok? Poi però c'è anche tante altre cose che magari per ora hanno meno successo, ma che sono comunque interessanti e funzionano fondamentalmente con questi meccanismi, un po' come quelle che sono gli alter ego del mondo, diciamo, delle multinazionali. C'è PeerTube, per esempio, che è l'alter ego di YouTube. C'è Abzilla, che è una specie di Facebook. Abzilla. C'è... C'è Writer Fleary, che permette di pubblicare articoli di più di 500 caratteri, per esempio, che non c'è nei social media ufficiali. Tant'è vero che, per esempio... Mastodon permette di pubblicare fino a 500 caratteri, a differenza di Twitter che ne permette di pubblicare per volta solo 280. Ora è aumentato, però. E poi c'è Pixelfeld, che è l'alter ego di Instagram. C'è anche Funk Whale, che permette di ascoltare musica e podcast in streaming, e così via. Ce ne sono molti altri. C'è degli elenchi completi in questi siti, che se qualcuno è interessato poi magari gli si possono mandare, però qui c'è gli elenchi di tutto ciò che qui per esempio parla del centralizzato federato distribuito. Io mi fermo qui, domande chiacchierarci sopra, sì, volentieri. Quello ha detto Stefano. Volevo dire una cosa, no, riguardo ai social network. La maggior parte dei social network sono americani. Noi, come Unione Europea, non abbiamo ancora un accordo, cioè prima avevamo un privacy shield della parte questo accordo si aveva bruciato proprio perché gli Stati Uniti hanno in funzione una legge antiterrorismo. Enforcement, praticamente quello che sta accedere a questi dati senza chiedere niente a nessuno, e accedere a questi dati in qualche modo possono filare, schedare le persone in base a loro. Per esempio, se tu su Facebook senza distribuire fake, cioè un post contro magari oppure a favore della Russia, all'istanza della Russia, sei immediatamente schedato. Cioè, questo vuol dire che magari non succede niente, però nel momento in cui magari chiederai di fare un testamento, fare un cioè, perché tu hai espresso di dare queste informazioni sono questa legge. E ancora non l'hanno risolta, diciamo che la stanno parzialmente hanno risolta, però la stanno parzialmente risolvendo e installando dei server per questi servizi in Europa. però può darsi che venga accettata come soluzione, sai che anche TikTok sta installando server. Sì, e cerca un accordo, infatti. Sì, sì, però su per l'Unione Europea gli Stati Uniti. Sì, la cosa eclatante è che non ci sono motori di ricerca, non ci sono social network, tutte le piattaforme, i servizi importanti europei. Poi si va verso Oriente, si va verso Occidente, no? Cioè, l'unico che ha avuto grande successo è Spotify. Non mi viene a mente altri. No, c'è stato diversi tentativi, ma rispetto, per esempio, ai motori di ricerca, i francesi si sono buttati due o tre volte a cercare di fare, ma non gli è riuscito. C'è anche il motore di ricerca italiano. Sì, ma non... Spotify nasce in Nord Europa... Finlandia, Svezia. Fino a che qualcuno non lo compra, perché poi voglio dire, anche lì, essendo sistemi centralizzati, eccetera, eccetera, arriva Elon Musk di turno e se lo compra. No, e siccome i capitali sono lì, tra l'altro, appunto, una cosa, appunto, è il discorso: non ho niente da nascondere. Non è vero, prima o poi qualcosa che ci può danneggiare. C'è sempre, rispetto a quelle che sono le mie idee, dipende chi è, chi c'hai di fronte, no? Quindi da nascondere c'è sempre qualcosa. E per esempio anche su questo discorso, appunto, qui il discorso sono i grandi capitali in gioco, per cui per esempio anche questa cosa abbiamo visto la Silicon Valley Bank, no? Lì per esempio c'è da chiedersi, rispetto a quello che vedevamo prima della grossa campagna pubblicitaria sul metaverso, sulla realtà virtuale aumentata, sul mondo fantastico che si prospetta e così via, lì per esempio secondo me, siccome la Silicon Valley Bank è una banca di venture capital, cioè che gioca molto a rischio, cioè magari ha investito molto sia sul discorso del metaverso, sia sul discorso dell'intelligenza artificiale che vedevamo l'altra volta, e che rischiano di essere bolle. E nel momento in cui il prezzo del denaro aumenta perché c'è un problema inflattivo, eccetera, eccetera, è evidente che si può arrivare, per esempio, ai collassi delle banche, proprio perché hanno investito in questo. Non solo, ma è un mondo globalizzato in cui la Silicon Valley Bank, per esempio, non è che si tiene tutti in pancia quelli che sono i crediti fatti in venture capital in quel modo, cioè a rischio. Spesso e volentieri ne fa dei pacchettini, fa i fondi e li dà da qualche altra parte, per cui poi si ritrovano in altre banche e così via, e si rischia poi le famose bolle, no? Così bulle di fondo di... Vai a delle bulle. Allora, aspetta, pigliati... Ciao, pure tu parla. Ciao, se qualcuno sa qualcosa da dire. Sì, quello c'è tutto da dire. Quindi il metaverso che ci hanno fatto, vuol dire intravedere, per ora è sostanzialmente fuffa. Cioè, può darsi anche che un giorno. Però tutto, voglio dire, è costoso più che altro, cioè il caschetto e gli accessori costa 2.200 euro, tra l'altro. Più ci vuole un computer molto performante e una connessione con la fibra. Io l'ho domandato ai miei figlioli, c'ha 20 anni e non è neanche un sottoproletario, ho detto: ma fra i tuoi amici il multiverso potrà interessare? Ho detto: papà, c'hanno delle carcasse come computer, c'hanno delle connessioni, non hanno soldi per comprarsi il caschetto, la questione non si pone. Cioè è un discorso anche puramente classista. Ma se posso insistere, perché magari ne avete già parlato, cioè vorrebbe riprodurre una realtà questo metaverso. I campi di azione sono due. Una, la realtà virtuale, cioè creare il mondo virtuale in cui io mi inserisco con un mio avatar e vivo in questa realtà virtuale, l'altro è la realtà aumentata. Alla fin fine è forse anche più interessante, tant'è vero che nel secondo spot, io ho fatto vedere il primo, ma nel secondo spot ancora più accentuato questo, dei pompieri che si gettano nel fuoco, ma che vedono la temperatura del fuoco in quel punto, vedono là dove c'è un corridoio che non è, ma sono tutte cose che non esistono, teniamo presente. Se esistessero forse sarebbero uomini, ma poi qual è l'ente, qual è il sistema di corpo dei vigili del fuoco va a comprarsi una legge del genere che chissà quanto costerebbe. E così via. Comunque il pericolo più grosso è quello rappresentato dalle bolle, come si dice in gergo il filter bubble, cioè anche per quanto riguarda il metaverso il pericolo sociale che si prospetta, e per l'appunto ci faceva piacere come soci di circolo io e Stefano porre questi interrogativi, è quello per cui già ora i giovani e giovanissimi vivono nella loro bolla, no? Che poi vivere nella loro bolla vuol dire io tifo quella Fiorentina, per cui ne so, sta pareggiando 1-1 perché gli interessa, però ragiono solo con chi sta per la Fiorentina, con Gobbi no, con gli interisti no, e quindi mi trovo in questa bolla autoreferenziale in cui sono ben contento perché ragiono sempre con coloro che la pensano come me. E questo è un pericolo grandissimo, e in questo ci sta anche, ci siamo al solito un po' confrontati e Stefano, una proposta ovviamente informale, un quesito che si pone al circolo, no? Quindi Alessandro e gli altri soci del circolo, per cui questi social network, ci avete Facebook, va benissimo, però non lo utilizziamo per rinchiuderci nella cerchia solita, ma magari, che ne so, facciamo delle campagne pubblicitarie, tanto costa andulire, per far conoscere il circolo a tutti i quartieri di Sao Pino o a tutti i fiorentini, cioè non ci rinchiudiamo dentro le mura anti-anarchici sempre fra di noi, ma cerchiamo di contaminare il territorio. Il territorio può essere reale, come appunto il quartiere, e può essere virtuale. E in questo allora il discorso che faceva prima Stefano dell'opportunità di andare a investigare e magari anche contaminarsi con quelli che sono social network in qualche maniera un pochino più autonomi rispetto al mainstream potrebbe essere interessante, perché Mastodon, la cosa interessante che c'ha è anche quella per cui l'ha spiegato benissimo Stefano, ma tendo a ribadirlo con questi esempi. È vero che ogni nodo è federato agli altri nodi, per cui anche se io mi sono iscritto a un'istanza, cioè una comunità diversa da quella del circolo, a me è bastato un attimo cercare il circolo Arcia Prato e mi sono collegato con il circolo Arcia Prato che ora è su Mastodon 1. Ma chiunque è iscritto a Mastodon, anche su altre istanze, su altri computer, su altre comunità, può collegarsi. Però la cosa interessante è che ci sono comunità, chiamiamole così, autonome, che sono suddivise per lingue naturali, oppure per regioni, c'è quelle di Bologna, oppure quelli appassionati di viaggi, o quelli appassionati di matematica, quelli appassionati di tecnologia, quelli appassionati per l'appunto delle loro opinioni politiche e sociali, dello sport, del fumetto, delle scienze, per cui boh, vado su Mastodon Art, ed è molto probabile che trovi tutti post fatti da persone appunto che sono appassionate d'arte, magari sono illustratori, magari sono fotografi, magari sono net e media artisti, ma sono comunque artisti, e per cui è interessante questa prospettiva di poter usufruire di un social network a livello di comunità locale, ma che poi può essere federato con quegli altri. E poi c'è il discorso, sia della propaganda e della fake news, si potrebbe anche approfondire un domani con un'altra iniziativa, ma e soprattutto della questione della profilazione, della profilazione e dei pericoli di tracciamento, nel senso che ora guardiamo se funziona, perché dipende dalla connessione e tante cose, ma i meccanismi di tracciamento di questi sistemi, che possono essere social network come motori di ricerca, sono assolutamente impressionanti. Guardiamo se riesco a farvene vedere uno, se funziona il tutto. Accetto tutti i cookies, mi muovo, clicco qui e qui, come lo volete, gatto? Lo volete? Definitivamente, sì. Faccio una figurina qui nello schermo, clicco su 6, clicco su questo gatto di spalle e poi che scrivo come nome, dimmelo voi. Fritz. Che nome scrivo? Il gatto. Il gatto. Fritz. Fritz. E poi come mail ci metto, che ci metto? Fritz. Chioccio, no, facciamo gatto.it. Ma questo è il Mastodon? No, questo è un sistema. È un sistema di tracciamento. Ah, di tracciamento. Cioè, fa vedere come funziona il tracciamento. Ora le manine ce l'ho qui. Se funziona bene, viene riprodotto tutto quello che ho fatto. Ma non è che ci avevo una telecamerina alle spalle. Questo funziona con uno o due semplici JavaScript che si mettano sulle pagine web e che addirittura i social network ci hanno nativi. Ovvero, è una distinzione un po' sottile quella fra social network e motore di ricerca. Però per capirsi, per tracciarci, i motori di ricerca devono inventarsi qualcosa sui siti web. I social network non si devono inventare nulla, perché siamo già a casa loro. E quindi è come dire, io entro in circolo e per fare la pubblicità ad un altro circolo ci devo mettere il fogliettino, oppure entro in circolo e c'è già la pubblicità di concerto e fine mese, perché sono già in questo circolo. E quindi è già più semplice. E di questi sistemi di tracciamento c'è veramente di tutto e di più, e ci sono, volendo, però anche le contromosse. Per esempio, questa è un'iniziativa statunitense, ma non è che siano tutti uguali anche gli statunitensi, e l'Electronic Frontier Foundation dà la possibilità di mettere, tanto se poi tu lo levi se tu vuoi, questo privacy badger, che è interessante, perché se per esempio vado di solito quotidiani sono strapieni di queste cose, che so, uno un pochino moralista, sì, tra l'altro il Fatto Quotidiano, che piaccia o meno. In Italia c'è una legge che dice appunto che rispetto ai cookie, ai biscottini che ti tracciano, in effetti si può rifiutare tutto, deve essere data la possibilità di rifiutare tutto. E invece, praticamente, non so se avete notato, ultimamente o ti abboni o accetti, non c'è rifiuto a tutto. Per cui, o l'abbandono. Il Fatto Quotidiano, guardate qui questo contatore in alto a destra, vedete come va? Vedete questo contatore in alto a destra? Si vede male. Comunque è arrivato a 40 traccianti, eccoli qua tutti i 40 traccianti di Fatto Quotidiano. E cosa sono? Quelli che diceva prima, non so come si chiama, signori? Giovanni, come diceva prima Giovanni, questi da Yahoo a Google a Facebook a Analytics, DoubleClick, Riteo, sono tutti server per lo più americani, si potrebbe dire quasi tutti americani, in cui cosa raccolgono? Raccolgono in maniera ancora più scientifica, articolata e ovviamente con elaborazione di dati sofisticata, quello che ho cercato di farvi capire con la dimostrazione di prima. Era chiara la dimostrazione di prima, no? Cioè era diretta, io mi muovo, clicco, digito e possano tracciare tutto e quindi metterlo da parte e quindi dire Giovanni è appassionato di scienze fisiche, Stefano di fotografia, io di passeggiare nella natura, e quando viene Giovanni quindi gli fa vedere un manuale di fisica, quando torna Stefano gli fa vedere la nuova Nikon da comprare, quando ci vuoi io mi fa vedere le ciaspole per fare una passeggiata sulla neve. Io può anche passeggiare. Sì, sì, lo so, tu fa ogni cosa, sì, che ti risparmi. Per cui, fra l'altro, se volete ritrovare questi link, li trovate su Info Accessibile. La questione è che c'è da prendere atto che a livello mondiale gli attori in campo sono pochissimi. C'è una questione orientale, come potete vedere da questa mappa interessante, se l'ha inventata un italiano è diventato famosissimo, questa mappa di Vincos, per cui fra prime e seconde scelte la questione è che in Occidente più o meno si utilizza tutte le stesse piattaforme e quindi su social grosso modo Facebook, WhatsApp, Instagram e via dicendo, TikTok l'hanno inventato in Cina e poi esportato a Occidente, e poi c'è tutta una questione invece orientale, per cui ci può essere Kakao, ci può essere VK e sta per V-Contact, ci può essere tutta la galassia cinese, per cui Weibo, che è l'equivalente di nostro Facebook, volendo, e poi c'è UQ, che è l'equivalente di nostro YouTube. Però, grosso modo, a Oriente non si prendono in considerazione, perché poi c'è questa cosa buffa che si ricollega sempre al fenomeno filter bubble, per cui anche io mi sento di parlare un pochino, insomma, anche a nome di Stefano, poi interviene ovviamente, però si è vissuta una grande illusione nel momento in cui è venuta fuori questa comunicazione digitale, che si è detto, vabbè, si può comunicare in tutto il mondo, si spera che le persone si interessino anche di che succede in Chiapas, di che succede dall'altra parte del mondo, e invece c'è stato questo effetto incredibile di filter bubble, per cui sì, io posso comunicare con tutto il mondo, però alla fine comunico solo con quelli che la pensano come me, magari tanti, ma che la pensano come me. Poi, per carità, ci possono essere dei sistemi per andare, ci sono anche i motori di ricerca specializzati sui social network, per cui posso, che ne so, cercare degli argomenti o delle persone, per esempio sull'accessibilità, un acronimo famoso, accessibilità, che è l'argomento dell'ultimo ciclo che si farà il 30 settembre, c'è un anonimo famoso che si chiama il 30 marzo, che si chiama ALLI, A11Y, che sta per accessibility, e c'è questo motorino di ricerca, è bellino, che ti fa vedere nei vari social network esistente al mondo un hashtag, che sarebbe un argomento, oppure un utente, oppure una parola chiave, come è trattato nei vari social network, quindi Instagram, oppure Twitter e via dicendo. Vedete, questo accessibility sarebbe in inglese questo ALLI. Però rimane il discorso della bolla, che quindi secondo noi dovrebbe essere affrontata Questo è un altro repository di informazioni. Se credete, potete prendere in considerazione per approfondire questi argomenti anche sui social, un blog. Rimane il problema di non cascare nella bolla. Tant'è che l'invito è quello di utilizzare i social cercando anche, che ne so, di fare delle pratiche di ascolto in qualche maniera. Io per esempio ho partecipato a un'iniziativa portata avanti con altri, diciamo, amici, colleghi che si occupano di social network, e che è stata poi pubblicata su questo portale, si chiama Net Reputation, e si è fatto due cose. Da una parte si è prima e durante la pandemia realizzato due ebook sempre liberi da scaricare, gratuiti. Il primo si è chiamato Generazione a Confronto, perché siamo andati all'ascolto di generazioni diverse per capire come veniva vissuta la socialità, e per cui era interessante, perché c'era persone di una certa età che dicevano: ma noi per trovarsi con gli amici si suonava il campanello e poi gli si diceva di scendere e di trovarsi ai giardini, cosa invece ovviamente ora non funziona più, perché per trovarsi con gli amici ci si sente via WhatsApp e via dicendo. E un altro che invece si è chiamato Digitale Diffuso, e in cui si è raccolto una serie di interviste fatte attraverso una serie di podcast, cioè interviste audio, che poi abbiamo pubblicato, sempre liberamente scaricabile, cercando anche durante la pandemia di capire quale poteva essere il disagio, soprattutto rispetto ai giovani e ai giovanissimi, i meccanismi di disagio vissuti dall'isolamento sociale e acuito in qualche maniera anche da alcune pratiche digitali. Ecco, io non volevo dire altro se non esprimere di nuovo l'invito al circolo di, in campo digitale, interpretare i social in maniera più laica possibile, ovvero contaminandosi con le istanze in qualche maniera autonome che la tecnologia ci può mettere a disposizione come Mastodon, ma anche in maniera più laica quello che già state utilizzando, tipo Facebook, cercando di contaminarsi con un'altra cittadinanza che non sia già quella che conoscete. E dopodiché, secondo me, potrebbe essere valido il discorso di ritornare un po' all'azione sul territorio, magari utilizzando anche le nuove tecnologie, e quindi, che ne so, anche il meccanismo della radio. Ci avete una fantastica radio a disposizione, Nova Radio, a me piace tantissimo come selezione musicale, la radio dell'Arci. C'è Radio Wombat, quella dell'Emerson, un po' più avanti, Web Radio. Vi potete inventare una radio facendo dei podcast e quindi delle interviste. Però ecco, secondo me è il momento in cui bisogna tornare un pochino sul territorio con dei meccanismi di ascolto, per cui proprio prendere un microfono o anche nulla, lo smartphone, andare in giro in quartiere e dire: oh, ma sono di Nova Radio, sono di Radio Wombat, sono di Radio Circolarci Porta a Prato, ma secondo te nel quartiere che cosa c'è che non va, no? E poi chiedere il permesso magari di registrare queste testimonianze e raccoglierle. Perché io sono un po' ansioso e paranoico, e lo sa chi mi conosce, però ecco, mi viene a mente, concludo con una mossa un po' antipatica berlusconiana, raccontando una barzelletta. Quando si occupò il Giardino Primavera con Stefano, Luciano e diversi altri cittadini di quartiere di Rifredi, sottraendolo vittoriosamente alle speculazioni edilizie, il Giardino Primavera è quello qui in vetta a Rifredi, dove ai tempi ci proiettavano i film. Mi ricordo che una delle scene sociali si faceva lì per, appunto, per affermare l'esigenza al comune di Firenze che quell'area non dovesse diventare il parcheggio per l'adiacente hotel, ma un giardino, ed ora è un giardino, piccola, o una chiesa, piccola battaglia vinta. Mi ricordo un cittadino del quartiere, un abitante del quartiere, disse: ah, vi racconto una barzelletta, complice la grappa cinese, non molto politically correct, che però diceva, raccontava questo, dice: c'è un passaggio a livello che veniva attraversato sempre da una persona in carrozzella, una persona con disabilità, per l'appunto l'ultimo argomento che affrontiamo questo mese, il 30, e la barra è aperta, sicché ci va tranquillo sulla carrozzella, attraversa e si incasta sui binari. La barra è sempre aperta, sicché è tranquillo, però insomma comincia a preoccuparsi, dice: casellante, chiami casellante. Casellante per l'appunto andava un bagno. Casellante, sono rimasto incastrato, vieni a aiutarmi. Il casellante non torna nel bagno, si incomincia a sentire il fischio del treno. Sicché senti il fischio del treno e questo incomincia a aver paura. Sicché urla ancora più forte: casellante, sento arrivare il treno, vieni a aiutarmi. E il casellante non torna. Il treno, il poeraccio, incastrato la sede rotelle e binari, lo vede arrivare. E per l'appunto in quel momento torna il casellante nella sua guardiola. E lui gli dice: casellante, che c'è? Senti, è botta! Perché noi siamo in questa situazione. Noi siamo l'umanità sui binari, il treno sono le nuove tecnologie che non vanno veloci, stanno accelerando. E se non prendiamo, secondo me, consapevolezza di come stanno accelerando e di come potrebbero piombarci addosso tutto a un tratto, con tutti gli effetti nefasti. No? 2 settimane fa si è fatto una serata su ChatGPT e gli algoritmi. A distanza di 2 settimane, ChatGPT 2 settimane fa era il 3, è uscito il 4, tutti ne parlano, mi hanno raccontato, perché ora ChatGPT 4 può anche vedere, mi hanno raccontato una dimostrazione per cui questo apre il frigo, fa vedere tramite ovviamente il telefonino quello che c'hanno in frigo a ChatGPT 4, e ChatGPT 4 correttamente gli propone una serie di ricette con quello che c'hanno in frigo. E purtroppo contemporaneamente sono venute fuori notizie sempre più numerose e ricorrenti di licenziamenti già annunciati grazie alla... Anche giudizi in tribunale, via dicendo. Per cui si sta accelerando su questo. Ora, non è che è tutto negativo, è tutto in male assoluto, per carità, è anche divertente interpretare la tecnologia, no? Però ecco, se non la si interpreta con un livello anche collettivo di autonomia e di presa di consapevolezza, se non ci si muove a livello politico perché vengano fuori delle iniziative, che ne so, anche di ammortizzatori sociali, per cui non esiste che Bill Gates, Elon Musk, Zuckerberg guadagnino sfracelli di miliardi e poi si permettano di licenziare continuamente decine di migliaia di persone. L'ultima tranche di licenziamento di Meta annunciata a Zuckerberg è di 10.000 persone. Finché non verrà imposto dal livello politico una ridistribuzione delle ricchezze diversa rispetto a questa piramide sociale che si sta costruendo grazie alle nuove tecnologie, veramente ci si può trovare a delle prospettive che secondo me, soprattutto per le nuove generazioni, perché noi ormai ce la siamo giocata, però per loro stanno in fondo, e possono essere inquietanti. E in questo, secondo me, il circolo, dopo che ha ospitato quel bellissimo libro La rete non ci salverà, della ricercatrice universitaria napoletana, non mi ricordo il nome, bravissima, che è venuta qui a parlare e che ha detto tante cose interessanti, e deve cercare un attimino di interpretare come sta interpretando benissimo tante altre cose, dai tango queer allo yoga, e quelle cose che gli succedono intorno. Ecco. Tutto qua. Io volevo solo dire questo. lasci posto a Stefano, è più serio, magari risponde alle domande. Domande? Opinioni? Solo una osservazione che ho sentito fare nei giorni scorsi da un, non mi ricordo, un giurista, un avvocato, qualcuno di, è stato interpellato dalla Guardia di Finanza e gli chiedeva: ma come si fa a inquadrare la riproduzione, il falso di una borsa di Gucci nel metaverso? Cioè, nel metaverso, se il mio avatar si veste in una certa maniera, mi sembra di capire, e c'ha una borsa, è griffato, dice, queste griff hanno diritto a, come si dice, penso, io sono sì, in una realtà, cioè, virtuale, la questione però, diritto, la questione diciamo, diritto d'autore è complicata, quindi in Lungarno c'è giusto un articolo di un docente di Pisa interessantissimo su come si applica il Chavese qui ai circolini del diritto d'autore rispetto alle produzioni di intelligenza artificiale. Ora, intelligenza artificiale è una cosa e metaverso un'altra, però nel metaverso le grandi griffe ci si stanno già buttando a livello di business, perché un discorso è la borsetta a 5.000 euro e se può, mettere, può permettere solo qualcuno, il discorso è che la borsetta di Gucci al mio avatar che costa 5 euro magari me la posso permettere anch'io, moltiplicato per mille persone o miliardi, come Stefano ha ben illustrato, come massa critica di utenza e quindi di consumatori, sono di nuovo soldi che corrono e già lo stanno facendo. Cioè c'è già alcune grandi griffe della moda che vendano i gadget di lusso che gli avatar. Sì, teniamo presente appunto che c'è un meccanismo di royalties che di solito vengono pagate appunto da questi grandi social network rispetto all'utilizzo di tutta una serie di cose. Si è visto giusto oggi, no? Con la questione della SIAE e di Meta, no? Che è successo? Il fatto è che essendo delle grandi multinazionali che hanno un enorme potere, cosa fanno? Come hanno fatto con la SIAE, dice: vabbè, io ti pago in maniera forfettaria questo, se non ti va bene mi importa nulla, levo quello che è. E hanno un potere contrattuale estremamente enorme, no? Rispetto a chiunque altro. Quindi sì, pagheranno le royalty, faranno gli accordi, però sicuramente da una posizione di forza e di potere, come quella che hanno. Cioè, il problema, secondo me, è la società capitalistica. Cioè, quando c'è un'accumulazione di tanta forza, potere e capitale, è quello probabilmente, non solo per le borse di Gucci, ma per tante altre cose, può fare un po' quello che gli pare, il che non è bello. No, bello è che questo nuovo capitalismo poi è basato su soldi poveri, no? Cioè gente comune dice: le tasse le pigliamo dai poveri. No, ora non ci pigliano più nemmeno le tasse. Ora ci pigliano i dati, ci profilano. Non so se avete notato, ma io forse non ero stato sufficientemente chiaro. Non è che Facebook, per esempio, o comunque Mark Zuckerberg e i suoi amici prendono i dati soltanto dentro i loro social network. Come ha dimostrato il giochino di Enrico, lo prendono in tutto ciò che noi facciamo in rete. I famosi cookie che avete visto, che stavano tracciando dal Fatto Quotidiano, erano di Facebook. Se andavo a vedere sul telefonino perché non volevo sbagliare, c'è il caso famoso di Armani.it. Armani.it fu un dominio comprato, tra l'altro mi sembra da una ditta toscana, che faceva roba sempre pelle, che lui si chiamava Armani, piace. Ed era uno dei primi a occuparsi di queste cose, e si è preso Armani.it. Ma tipo 3 o 4 anni prima dell'Armani famoso. Quando l'Armani gli ha fatto causa, il giudice ha detto, sì, te si chiami Armani, però Armani non sei te, che tu non vali nulla. Armani è Armani, per cui devi dargli dominio a Armani. Ma lui, poraccio, si chiama Armani, faceva le cose in pelle. L'aveva registrato 4 anni prima, Armani.it la dovevo cedere, questo per suffragare quello che stava dicendo poc'anzi Stefano, cioè ci sono delle posizioni di privilegio, di dominanza economica che purtroppo il digitale speriamo mettesse in discussione, invece sta conclamando e rendendo ancora più pregiate e dominanti. Questo ci deve far riflettere su... scatina, a livello di consapevolezza e politico, a livello sociale se ne possono pagare. Questo ci dovrebbe far riflettere sul fatto che cerchiamo di mantenere il più, cioè di usare il meno possibile tutti i sistemi centralizzati. La centralizzazione porta sempre a qualche cosa che è negativa. E cerchiamo di fare in modo che il potere e noi stessi utilizziamo cose, strumenti che siano il più decentralizzato possibile. In questa maniera in genere non si sbaglia. Ok, io sono... C'è un modo per diffondere questo tipo di social media? C'è solo il passaparola? Sì, penso per ora sì. Anche iniziative per però... No, certo, non apposta perché non ho parlare, però prima di farmi un accanto, certo. Appunto sapete questa modella da dare se... che c'è di buono su questi social network, appunto vi dicevo, appunto, se qualcuno è interessato da qualche c'è una quantità enorme in rete, fortunatamente anche per ora, di documentazione in merito. Quindi voglio dire, è vero che ci sarà tutto il tempo perché si fa 2000 cose, perché si lavora, eccetera, eccetera, però come potete vedere, insomma, c'è un'ampia mole di documentazione. E quindi uno magari gli dà un'occhiata, insomma, cerca un po' di informarsi. Io ho detto, secondo me è opportuno che si cerchi sempre qualcosa che non vede più di tanto accentramento di potere. Ma perché dice che perché la sua interfaccia proprio, guarda, se io vado a vedere l'interfaccia di Twitter, sembra, cioè di Mastodon, sembra Twitter. Perché è fatto per scambiarsi notizie e informazioni. È fatto cioè, allo stesso scopo di Twitter. Allo stesso scopo di meno di per Twitter. Fare amicizia, come Facebook ha fatto con vedi? Twitter per scambiarsi l'interfaccia è fondamentalmente molto molto simile, spero, perché io non ho né Twitter né Facebook, niente, ho solo WhatsApp, diciamo, poi Telegram, Signal, però ovviamente la maggior parte è WhatsApp, poco meno. Sistemi di messaggistica, diciamo, del Fediverso, per quanto mi consti, non ci sono. Anch'io dopo Telegram, che dicono essere più sicuro e meno tracciante, non so quanto, perché è russo, è nato in Russia, no, però quelli stai utilizzando sono instant messaging, cioè mi sento con i miei amici per fissare, anche sì, per scambiarsi opinioni, però per fissare. La differenza. Facebook è proprio per conoscersi, cioè te baro, c'è una persona, c'hai Facebook, sì, Twitter è più che ti informi sulle questioni di politica, quando scrivono giornali, cioè, lanci. Mi leggo un giornale, una rassegna stampa online. Facebook invece è più questo. Lanci la cosa spot e basta, insomma, no? Cioè, su Twitter è una foto o un piccolo testo, la lanci, no? Dal tuo account, e in teoria potrebbe essere recepita da mentre Facebook gli racconti la sua storia, cioè chi sono, cosa faccio, che mangio, cioè, mari. Che cosa stai pensando in questo momento, no? La frasina è, cioè, che pensi ora? Ecco, quello è Facebook. Quindi Facebook in teoria sta di fatto, e però appunto dicevamo, Facebook tra l'altro è in leggero calo. Bene. Proprio perché probabilmente c'è troppa roba, no? Alla fin fine. E anche Twitter è in leggero calo, ma per è l'effetto Elon Musk, sembrerebbe. Ok? Perché poi viene utilizzato. C'è anche dei tabici nazionali, i ragazzini stanno su TikTok, i giovani su Instagram e i vecchiucci come noi magari stanno su Facebook. Boom, sì. I filologi. Anche tabici così, generazionali. Instagram stanno in mezzo. Sì. Che poi, vabbè... Queste cose, l'importante per loro, insomma, è questa raccolta dati, questa profilazione, per cui poi va a finire, nascono in un certo modo, tanto è vero addirittura Twitter quando è nato solo 140 caratteri, manco le immagini, insomma, manco le foto, poi è diventato, va a finire che poi si assomigliano, è difficile anche stabilire la differenza tra l'uno e l'altro. Appunto, non avendo peso, poi... quando dicevo dei messaggi, la pagina Facebook, che poi posso vedere senza iscrizione, quindi è un comunicato, per me è un comunicato, per essere veloci. Ora si stanno molto mischiando, poi c'è l'algoritmo, dice a Stefano, ti presentano cose che ti possano piacere, però considera che Facebook, che si chiamava The Facebook, era, non so se avete mai visto nei film americani, quando uno va al college americano c'è i libri con tutte le foto e i nomi, ecco, lo chiamò faccia libro Facebook perché doveva replicare quello e fondamentalmente mi fa imbroccare i giovani fra di loro. No, era lui che voleva imbroccare, io sono tu che vedi, c'ho questa foto, ho questa università, come ti chiami, no? Per cui nasce proprio come social relazionale, mentre invece Twitter nasce come social di opinione o di riferimento per dire, informazioni. In questo momento per esempio Facebook si è accorto e sono qui, e no che sono qui, ma insomma che mi interessa spuntini digitali, e subito sotto c'è il quaglia, vedi come mi ha profilato bene il mio Facebook.